Disco Dallas says a manner. Questo gennaio e questi dischi della settimana con un album che abbiamo scelto perché quando l'abbiamo ascoltato ci è sembrata un po' una coccola, giusto Mauro? È un album avvolgente. È un album avvolgente, di quelli da ascoltare secondo me in una di queste belle giornate uggiose, tutte grigie, piatte, dove c'è un clima terrificante, con la copertina ti metti in sottofondo questo disco. Cosa ne dici? Davanti al camino mentre sorseggi vin brûlé. E non abbiamo il camino. E neanche il vin brûlé. Comunque stiamo parlando di Grilli. Dillo tu per piacere. No, ma dimmi proprio tutto e poi lo ripeto okay. Io. Grilli, che è il secondo lavoro, ma primo album vero e proprio di L'Umore Nero, che ecco. È un cantautore. Adesso lo dirò io a questo punto. Il disco della settimana che abbiamo scelto per voi si chiama Grilli. Senti la mia R. Grilli. È l'album di L'Umor Nero. Diceva appunto Mauro che è il secondo lavoro di L'Umor Nero, perché nel 2017 è nato un EP di debutto, ma questo è il primo album completo. L'album è uscito il 22 di gennaio, quindi pochissimi giorni fa, e nella produzione di quest'album il produttore appunto ha un ruolo particolarmente importante. Grilli appunto l'evoluzione di questo progetto che è nato 3 anni fa, nel 2017, nella creazione dei brani che invece compongono l'album, la presenza del produttore Andrea Mottarelli, che è anche un musicista, è stato fondamentale in un qualche modo, perché tra l'umor nero e Andrea Mottarelli si è creato un fortissimo legame creativo e artistico, e a tratti viene definito dagli stessi artisti e produttore simbiotico, tanto da pensare che quest'album sia quasi fatto a quattro mani in un qualche modo. L'album contiene 8 tracce. Prima abbiamo ascoltato La cosa vuota e adesso proseguiamo a presentarvi appunto quest'album Grilli con la title track, nonché la canzone che apre l'album, appunto Grilli. Ma quante volte lo stai dicendo? Grilli. Ti sta piacendo alla fine? Grilli. Va bene, ascoltiamo Grilli. Grilli, che appunto è il primo album completo di L'Umor Nero, che è uscito il 22 gennaio, vi ricordiamo. Cosa differenzia quest'album dall'EP di debutto? Diciamo che sia l'artista che comunque le recensioni dell'album che abbiamo cercato sottolineano la grande varietà e la complessità delle influenze che ci sono all'interno di quest'album. Infatti, se l'EP di debutto era, diciamo, più minimale in un qualche modo, Grilli ha osato di più. Sì, si spazia da sonorità che vanno dalla dub al trip hop, passando anche per il blues e il soul, quindi attraversando praticamente tutto l'universo musicale possibile, senza dimenticarsi del rock e del folk con dei tocchi tribali. Tutto in 8 tracce? Tutto in 8 tracce, comunque cercando di mantenere uno sguardo e un gusto contemporaneo. Infatti l'album viene definito come un album ricchissimo di colori e atmosfere, che riesce nell'arduo compito di dare unità a un insieme di canzoni eterogenee, perché appunto ascoltando i vari brani si sente questa forte differenza tra un brano e l'altro. Ci sono canzoni in cui ad esempio il cantato è proprio al minimo, oppure altre in cui ci sono anche collaborazioni, si sentono voci diverse. È un album appunto ricco, possiamo definirlo in questo modo. Il progetto è tra l'altro cresciuto in un qualche modo in un appartamento, perché diciamo che sia il produttore che il cantante hanno dovuto lavorare negli home studio, in particolare a Milano e a Londra, rispettivamente l'Umor Nero a Milano e il produttore a Londra, perché ovviamente in questo periodo pandemico non c'era la possibilità di lavorare diversamente. Quindi tutti i brani sono nati in un qualche modo a casa, tranne uno, Overture. Questo brano è stato registrato quasi interamente presso il Bella Studio, che è uno studio di Londra, uno studio che tra l'altro è famoso per avere registrato canzoni di Nick Cave, dei Prodigy, Arctic Monkeys, quindi uno studio molto importante. Ma rispetto ad altri cantanti che hanno prodotto e fatto uscire degli album in questo periodo, che sono stati creati durante la pandemia, durante il lockdown, in realtà ci dice appunto l'Umor Nero che solo Overture è stato creato, è nato, diciamo, ha preso vita durante il lockdown in questo ultimo anno, mentre altre canzoni erano già nate in precedenza, quindi diciamo che non c'entrano con questo periodo molto triste o comunque che ci ha messo in difficoltà. Si dice che alcuni brani potrebbero frequentare addirittura le scuole medie, quindi hanno una decina d'anni almeno come scrittura. E anche perché ci dice appunto l'Umor Nero che lui come cantautore compone a mano a getto di continuo e accumula spesso tantissimo materiale, da cui poi alla fine va a pescare canzoni che in un qualche modo in questo caso sono state poi compattate, perché avevano un destino comune, diciamo, no? Avevano un DNA che le collegava, e queste sono appunto, nonostante la grande diversità musicale e acustica, sono poi quelle che sono state unite per creare Grilli, che è l'album che vi stiamo presentando oggi. A questo punto vi faremo ascoltare un brano che si intitola Due. Due viene descritto un po' così: da una semplice canzone folk, voce e chitarra, e l'arrivo del produttore, dello strumentista Andrea Mottadelli, l'ha fatta diventare qualcosa di differente, grazie alla sua vena creativa e genialità. Quindi adesso ci ascoltiamo Due, presa sempre da Grilli di L'Umore Nero. Thank you. vi sta piacendo quest'album che vi stiamo presentando? Perché, dai, ammettiamolo, ha dei pezzi che sono proprio tanto diversi tra loro, no? È interessante perché è quasi come ascoltare tanti album diversi all'interno dello stesso album. Però a questo punto c'è una parte che non abbiamo ancora fatto, che è la biografia. Ecco, chi è l'Umor Nero? L'Umor Nero? Chi è l'Umor Nero? Dimmelo. È un cantautore milanese. Davvero? Giuro, esordisce con l'EP omonimo nel 2017, che esce per Cabezon Records, che sarebbe testone. Mi viene in mente quel film Frank, quello che ha la testa gigante. Vabbè, non c'entra. Comunque l'album, l'EP, ottiene delle recensioni molto favorevoli fin dall'inizio, tanto che il singolo Vite Strane, estratto da questo EP, viene anche incluso nella compilation di Rocket, la 94esima compilation di Rocket. E il brano Ok nella compilation Non esiste solo De Gregori volume 2. Questo mi mancava. Molto carina questa idea, Non esiste solo De Gregori. Chissà poi perché De Gregori, cioè se la presa con loro, non sappiamo perché. Dovremmo scoprirlo. Comunque lui imbraccia la chitarra elettrica da adolescente e non se ne distacca più. È come un sacco di adolescenti, fortuna, esatto, che poi qualcuno smettono. Se ne distacca, lui no. Lui continua, per fortuna, e suona in diverse formazioni, tra le quali i Male di Grace, con i quali pubblica un album nel 2012, e i Paradisi, con cui pubblica Dove andrai nel 2016. Anche non so, questo. Paradisi me li immagino che suonano l'ukulele. Con Tommaso Paradiso. Tanti. Oddio Tommaso santo. Paradiso che suonano. No, per l'amor di Dio, no, scherzo. Comunque, torniamo all'Umor Nero, che è quello che ci interessa oggi. Nei I Paradisi, appunto, conosce il polistrumentista Andrea Mottadelli, con cui inizia a muovere i primi passi della sua carriera solista. Rapporto che si è consolidato a tal punto che praticamente hanno scritto a quattro mani quasi l'album che vi stiamo presentando oggi. Quindi è l'Umor Nero con Andrea Mottadelli. Adelli, potrebbe essere. Esatto, più o meno. Un sì. Ensemble. Un ensemble, un duo. Ah, ok, ma mi piaceva più ensemble. Ensemble in due. Ok. Con cui appunto lavora a Grilli. A Grilli, sì, ricordiamo che appunto lavorano a distanza, perché l'Umor Nero sta a Milano, mentre Andrea Mottadelli sta a Londra. Però nasce quest'album, queste otto tracce che sono contenute all'interno di Grilli e che pian piano vi stiamo raccontando. L'album, vi ricordavamo prima e ripetiamo anche adesso, è uscito il 22 gennaio, quindi è uscito, insomma, poco tempo fa. E a questo punto ascoltiamo un'altra traccia, Mauro. Ascoltiamo un'altra traccia in cui c'è anche un featuring con Paolo Saporiti. La canzone è la traccia numero 5 e si chiama Happy Birthday Songwriter. Ma chissà come mai hanno fatto. Cioè, il compleanno di qualcuno che scrive canzoni. Quello ci poteva stare, ma chissà sì. Se era lui. Cioè, se ha fatto essere. Una canzone, un'autocanzone. Scopriamolo insieme. Festa canterai, quale melodia sarai, il colore che hai nell'anima mostrerai. Happy, happy birthday, sunrise. Thank you. facciamo una cosa che non facciamo da un po' di dischi della settimana, cioè parlare un po' dei progetti futuri degli artisti, perché essendo stato un periodo così particolare in cui c'è stata una forte immobilità e una forte impossibilità poi di fare dei concerti, è importante anche però cercare di capire se gli artisti hanno voglia di guardare avanti, perché appunto l'Umor Nero in una intervista ci dice che effettivamente quest'anno gli hanno fatto una domanda chiedendogli insomma cosa ti porterai a casa o cosa ti ricorderai di questo 2020 che è stato segnato comunque da dei periodi di chiusura molto lunghi, e lui ha detto vabbè, me lo ricorderò ovviamente come un brutto momento, ma tutti ce lo ricorderemo come un brutto momento, perché essendo un assiduo frequentatore di concerti, spesso in solitaria tra l'altro, mi piace tanto stare nel buio in un piccolo locale con le mie birre ad ascoltarmi il concerto, insomma una cosa molto intima che appunto gli è stata tolta in un qualche modo. E quindi lui dice vabbè, ho sofferto parecchio questa impossibilità. Tra l'altro il progetto L'Umor Nero non ha ancora avuto la possibilità di avere una dimensione live, quindi oltre a non poter godere dei concerti in solitaria come spettatore, non ha neanche avuto la possibilità poi di portarlo sul palco, di suonare lui, di essere lui quello che si esibiva. E poi parla appunto anche di cosa si aspetta da 2021, e lui dice: io vorrei continuare a produrre, a scrivere musica, a tal punto magari da riuscire a fare un nuovo EP, un nuovo album. E dice: vorrei dare sfogo alle tante sfumature artistiche che fanno parte della mia sensibilità, senza l'obbligo però di fare qualcosa che piaccia per forza o che debba andare bene a qualcuno in particolare, che non sia io stesso. A questo punto allora, aspettando la nuova produzione di L'Umor Nero, che speriamo arrivi poi a breve, e anche la possibilità di vederlo live, io direi che ci possiamo ascoltare un altro pezzo, che è l'ultimo che vi facciamo sentire. Prima vi abbiamo parlato dell'unico brano che non è nato negli home studio di L'Umor Nero e Andrea Mottadelli, ma è stato registrato in uno studio a Londra, il Bella Studio, e si tratta del brano Overture, che tra l'altro, ironia della sorte, è quello che chiude il disco. Closer Tour. La Closer Tour, esatto. Ed è l'unico brano che è sorto, diciamo, nato nell'ultimo periodo, quindi in un periodo già di lockdown. Allora noi vi lasciamo a questo brano, vi ricordiamo che l'album di cui abbiamo parlato oggi è Grilli di Grilli di L'Umor Nero, lo dico io è Grilli di L'Umor Nero, che è uscito il 22 gennaio e noi ve l'abbiamo raccontato. Ci sentiamo la prossima settimana per il primo disco della settimana di febbraio, quindi usciamo dal primo mese del 2021, e speriamo che questo disco vi faccia compagnia durante questa settimana.